Sentiamo se c'è in linea Brunella. Brunella, ci senti? Sì, buonasera. Buonasera. Ciao Brunella, sono Paolo, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Allora, Brunella, queste case della salute, noi diciamo così, un tema l'abbiamo presentato a inizio trasmissione come un tema molto caldo in città, molto sentito, perché diciamo così, la sanità, sì, molto... la sanità è una cosa molto sentita, no? E quindi di riorganizzazione sanitaria si parla. Tra l'altro, sul Carlino di oggi, Barigliazzi, che è l'assessore alla sanità, in qualche modo parlava di queste, che secondo lui a breve e medio termine ogni quartiere, quindi ci saranno 6 case della salute a Bologna, e questa cosa, ad esempio, per rimanere proprio in tema con l'attualità, dovrebbe ridurre ad esempio molto l'accesso, che in questi giorni anche per l'influenza intasa i pronti soccorsi della città. E noi ci rivolgiamo a te, che sei Brunella Guida, e consigliere di quartiere al quartiere Navile di Coalizione Civica per Bologna, nonché membra del laboratorio partecipato sulle case della salute, poi ci dirà anche che cos'è. Si sono appena visti in un'assemblea l'ultimo mercoledì, e però insomma, io inizierei proprio dal chiederti: al momento di case della salute a Bologna in realtà ce n'è una, e una in apertura, e abbiamo chiamato te proprio perché quella in apertura è quella del Navile, alla trilogia del Navile, che sembra pronta e dovrebbe essere inaugurata a breve. Perché dei cittadini, cosa c'è che stona in quello che dice Barigliazzi, queste case della salute, che dei cittadini sentono l'esigenza in qualche modo di monitorare questo processo? Ma in primo luogo c'è moltissima disinformazione, e più che altro mancanza di informazione nei confronti dei cittadini. Questo è quello che abbiamo riscontrato, e questo è il motivo per cui a dicembre abbiamo deciso, come dire, di fare un'assemblea. Abbiamo assunto l'iniziativa come coalizione civica, come quartiere, ma essendo l'incontro particolarmente partecipato da cittadini e anche operatori sanitari, ci siamo resi conto che l'elemento primario era proprio l'elemento che non dovrebbe mancare nella costituzione delle case della salute, cioè l'informazione. Nel senso che chiaramente la maggior parte dei cittadini non sono a conoscenza neanche che chiudano gli attuali poliambulatori esistenti nel quartiere, e la notizia li coglie con allarme, giustificato peraltro, giustificato, certo, è comprensibile, no? Un presidio molto importante come quello del poliambulatorio Tiarini, certamente, ma soprattutto questo va a discapito, come dire, della scelta stessa della casa della salute, nel senso che è un cambio di paradigma che prevede proprio nella sua essenza il coinvolgimento di tutta la cittadinanza, e ovviamente, oltre che ovviamente degli utenti, e anche degli operatori sanitari. Purtroppo, anche per quanto riguarda gli operatori sanitari, apprendiamo da segnalazioni continue che riceviamo, e che abbiamo ricevuto e recepito anche come assemblea, che anche questi sono davvero poco informati rispetto ai trasferimenti in atto, che sono imminenti, perché come si sa la Casa della Salute al Navile verrà inaugurata, per quanto riguarda la struttura, il 4 di febbraio, e subito dopo, insomma, nel periodo, nelle settimane successive, ci dovrebbero essere i trasferimenti dei servizi. Sì. Io ti dico anche che ormai purtroppo questa, vabbè, ma un inciso che faccio da operatore dei servizi, che purtroppo il vezzo bruttissimo di non condividere con i lavoratori le scelte è una cosa ormai, ahimè, nella nostra città che è assodata, no? Ed era il fiore all'occhiello, la Bologna, diciamo, dei servizi. Secondo me una delle caratteristiche che la rendeva particolare era proprio questa, una condivisione tra la dirigenza e la base che non c'è più, che è saltata, scordiamocela. Certo. Ecco. E certo, no, è una rinuncia a una propria risorsa, perché è chiaro che gli operatori sono quelli che hanno, voglio dire, al di là delle resistenze sull'innovazione che ci può essere, ma sono quelli che comunque costituiscono la risorsa di rete nel territorio e di contatto, insomma, quindi è una rinuncia proprio definitiva a uno strumento non solo di partecipazione, ma anche di laboratorio, di esperienza, di innovazione, che erano peculiarità di questa città e che direi che sono completamente scomparsi in tutto, in generale, insomma, in tutti i settori, soprattutto quelli che riguardano poi il benessere e il bene comune in generale. No, Paolo, io ci tengo a dire questo, che noi non siamo assolutamente, in questo senso abbiamo cercato di coinvolgere i cittadini spaventati dal modello Casa della Salute. No, anzi, potrebbe anche essere un'opportunità, assolutamente, certo. Assolutamente, cioè è un cambio di paradigma che, come dicevo prima, una popolazione che invecchia sempre di più e che quindi prevede anche un coinvolgimento diverso dei nuclei familiari, no? I giovani si trovano spesso con 4 anziani a carico, quindi è una piramide invertita, diciamo così, e alla cronicità delle malattie che diventa una cosa sempre più evidente, e le case della salute dovrebbero rispondere a questo, oltre che a quello che dicevi tu all'inizio, cioè quello di essere elemento, come dire, di razionalizzazione rispetto all'accesso al pronto soccorso. E proprio per questo il laboratorio partecipato si pone proprio questo obiettivo duplice, quello di raccogliere certamente le istanze dei cittadini, ma ancora di più di informare rispetto a questo cambiamento che prevede, ripeto, anche un approccio culturale diverso, perché è che in qualche modo secondo noi era la cosa di cui si doveva far carico il territorio e non ha fatto, e quindi sono comprensibili poi gli allarmi di conseguenza, che la sensazione di allarme che tra i cittadini viene vissuta dai cittadini, sì, assolutamente. Ti dico, io ho appreso per esempio ieri che uno dei servizi fondamentali che dovrebbero far capo alla Casa della Salute, che è l'igiene mentale, lunedì si stavano preparando per il trasferimento, avvisando di conseguenza anche i pazienti, perché è chiaramente un'utenza particolarmente fragile. Che conosco, bene. Esattamente. E venerdì hanno appreso che invece non verranno trasferiti almeno fino a ottobre. Quindi capisci che effettivamente un po' l'allarme è giustificato che ci sia, ecco. Certo, certo. Ma da quello che tu hai capito, Brunella, al momento, quale sarebbero le differenze salienti fra gli attuali poliambulatori e le case, da quello che si è capito, le case della salute? So, allora, che ci sono delle criticità, certo. Tipo che ad esempio, no, questo coinvolgimento che dovrebbe essere una peculiarità delle case della salute, dei medici della medicina di base, sì. Dei pediatri invece, dei pediatri, che nicchiano un po', che non è che siano così entusiasti, ecco, di entrare. Questo è quello che si, è la vulgata che si sente. È una vulgata fondata. Noi abbiamo avuto anche la possibilità di vedere la pianificazione attuale, che però, come dire, è un po' cambiata anche rispetto a quello che dicevo prima, in realtà non è specificato. Allora, ci saranno dei pediatri ed è specificato il numero, che dovrebbero essere 5. Non è si dice che ci saranno anche i medici di medicina di base, ma non è specificato il numero, né vengono date delle indicazioni. Questo ci preoccupa molto, questo è un elemento, anche perché questo elemento che fa la differenza con i poliambulatori, è quello che pensavo anch'io. Ma le stesse linee di indirizzo regionale ci dicono che una casa della salute senza una rete, al di là è un coinvolgimento diretto dei pediatri e dei medici di base, non esiste una casa della salute, perché queste sono le figure che devono avere un ruolo di coordinamento di tutti gli interventi, anche rispetto alle prese in carico proprio delle patologie croniche di cui parlavamo prima. E non solo, ma poi, allora, saranno presenti, questo ci dice la pianificazione regionale, bene. Non è però specificato come e se verranno messi in rete, perché ti faccio un esempio: se non c'è effettivamente una programmazione alla base, diventa anche straordinariamente un elemento non di equità, nel senso, se il medico di medicina di base è presente nella casa della salute e altri non ci sono, si stabilirà un rapporto privilegiato con certi presenti piuttosto che con altri, i cui medici non partecipano alla Casa della Salute. Per certo. Partecipazione non intendo solo la presenza fisica, ma intendo, ripeto, la concertazione e la messa in rete di tutti i medici del territorio. Quindi ci sono, ripeto, degli elementi di criticità importanti, senza contare che sicuramente, per esempio, nel caso specifico del Naville, per esempio, non c'è la pneumotisiologia. E capisci che in un quartiere come il nostro, dove molti cittadini sono cittadini provenienti anche dall'Africa, dove la TBC per esempio è endemica, per cui ci dovrebbe essere la possibilità di accesso. C'è un vuoto significativo, cioè un vuoto importante. No, anche ripeto, anche solo alcune questioni specifiche di servizi che certamente non ci saranno, lasciano dubitare che questo percorso sia stato pensato. All'inizio noi abbiamo accolto delle segnalazioni rispetto alla capienza della struttura in sé, che è di molto inferiore ai vari poliambulatori che dovrebbero essere accolti. Non è di per sé questo un elemento significativo se c'è la rete. Detto ciò, però, mi sembra che stia diventando tale, nel senso che per esempio non ci sono alcune strumentazioni tipo ecografia o RX per esempio. Allora, questi elementi qui, non c'è chiaro come faranno, sì, dove c'è, sì, pronto soccorso, dove c'è la necessità, come dire, di un approccio anche banale. Insomma, io vado nella Casa della Salute perché ho avuto un piccolo incidente, non so, e come fa il medico a verificare? Ci dovrà mandare all'ospedale, non so se mi sono spiegata. Quindi sì, tu dici, quindi non è che, cioè, se l'idea, no, se diciamo così, l'idea nobile della Casa della Salute in qualche modo è il più possibile valutare e trattare il paziente nella sua globalità lì dentro, tu dici che questo, rispetto alle carenze che ci sono adesso, sarà difficile, perché il rischio è che poi invece venga lì, poi debba andare a farsi il raggio al maggiore piuttosto che da un'altra parte, e quindi rimaniamo un po' lì. Brunella, ti faccio, siccome questa è una tematica su cui sicuramente dovremo, come dire, tornare, perché anzi ti tengo bella calda lì, perché sicuramente noi ci torneremo sopra dopo l'inaugurazione, in cui avremo qualche elemento in più. Ti chiedevo proprio per chiudere due cose: uno, un po' com'è andata l'assemblea di mercoledì, e due, lo so che avete anche delle, come dire, delle azioni in programma, dei banchetti, delle cose, per cui se vuoi anche dire un po' come provate ad agire, a cercare di far comunicazione su questa tematica. Allora, il primo, noi abbiamo proprio appena in questi giorni, perché l'assemblea c'è stata lo scorso 10 gennaio, inviato una richiesta di incontro come cittadini al dottor Trevisani, che è il direttore di distretto, quindi il primo approccio, diciamo così, territoriale. Dopodiché, proprio partendo dalla mancanza di informazione diffusa di cui parlavo prima, organizzeremo dei banchetti di informazione, ma soprattutto per raccogliere le firme, per chiedere al quartiere di fare un'assemblea aperta, un consiglio aperto sul tema della Casa della Salute del Naville. Quindi abbiamo previsto di fare in queste nelle settimane, cioè, insomma, partendo dall'inaugurazione fino a nei prossimi mesi, fra febbraio e marzo, insomma, diversi punti informativi e di raccolta, come ti dicevo, delle firme per ottenere un luogo come può essere il consiglio aperto alla cittadinanza, in cui le istituzioni, dalla ASLA allo stesso assessore comunale Barigazzi, ci chiariscono i mille dubbi che in questo momento ci sono, ripeto, da parte dei cittadini che ignorano totalmente, e anche degli operatori, no, da parte degli operatori sanitari, certo. Bene, Brunella, io ti ringrazio intanto e ti, come dico, ripeto, ti rinnovo l'invito, perché dovremo sicuramente riprenderemo in mano e approfondiremo questo tema e lo terremo monitorato, perché insomma, la salute e la sanità è una cosa che sappiamo bene e molto, molto, sta molto a cuore alla cittadinanza. Intanto ti ringrazio e quindi e a prestissimo, buon lavoro e buone cose. Grazie. E ti aspettiamo anche qui in studio, quando vuoi, Brunella. Noi è un'opportunità che cogliamo volentieri, perché come dici tu è un argomento sensibile che coinvolge la salute e la cura del cittadino, insomma, assolutamente. Ok, Brunella, un abbraccio. Ciao, grazie, buona serata. Un abbraccio anche a voi, grazie mille, buona serata. Ciao.